Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà. Nella giornata che Radio 24 dedica alla crisi, naturalmente uno spazio di riflessione dobbiamo ritagliarcelo anche noi. Non avendo una precisa, innata competenza e vocazione nel trattare materie economiche o fiscali, oggi cercherò di affrontare l'aspetto più profondamente drammatico, secondo me, del vivere un momento di crisi. Non tanto probabilmente legato, ma questa è una mia supposizione, posso essere confermato o smentito agli ascoltatori, alla necessità di moderare o mutare il proprio tenore di vita. Abbiamo una convinzione di fare, nonostante quello che si possa immaginare o pensare, una quotidiana esistenza abbastanza ricca di margini su quali si possa lavorare. Ma il vero drammatico problema è la mutazione drastica dei nostri rapporti sociali, della considerazione che il mondo abbia di noi. E sappiamo quanto la considerazione che il mondo abbia di noi, quanto la nostra capacità, felicità, soddisfazione nel relazionarci con gli altri sia condizionata dal nostro lavoro. Lavorare è importante non tanto, secondo me, almeno nella società contemporanea, per il fatto che il lavoro ci produca risorse di sopravvivenza, ma quanto il lavoro ci qualifica come esseri umani e il nostro livello di dignità è determinato dal livello del nostro lavoro. Questo permette a molti di noi a volte di bleffare nelle nostre relazioni sociali riguardo al livello, allo spessore, all'importanza della propria occupazione. Ma in un momento così difficile e difficoltoso ci si trova di fronte a una necessità spaventosa e spaventevole di rivedere non soltanto il proprio tenore di vita, non soltanto la propria quotidiana capacità di acquisto, di soddisfazione dei nostri desideri, di soddisfazione dei desideri della nostra famiglia, ma anche la nostra posizione sociale. Se mi licenziano, se il mio lavoro cambia, se io perderò alcuni status che derivano dal mio lavoro, qualunque esso sia, io naturalmente perderò anche una considerazione da parte delle persone che mi valutano, mi pesano per quello che io faccio. Vi faccio un esempio molto personale: se io non parlassi al microfono di questa radio, ma domani fossi costretto a parlare, non so, a una radio parrocchiale o a un collegamento di citofoni di quartiere, è chiaro che potrei dire il minor guadagno posso compensarlo facendo sacrifici, ma la considerazione che il mondo ha di me, io lo misuro sulla mia persona, poi ognuno lo misuri sulla propria equazione esistenziale e sulla propria individuale maniera di porsi nei confronti della società, la mia vita cambierebbe totalmente. E qual è il prezzo di questa sorta di rimorso, di rovello, macerazione interiore che molte persone le porta alla distruzione anche fisica? Però cerchiamo di capire come si affronta la crisi sotto due punti di vista diversi, guardando verso l'alto, guardando il mondo dell'impresa e soprattutto il mondo manageriale di coloro che dirigono e si muovono nei piani alti delle imprese, che sembra una classe vista con l'occhio nostro fantoziano di semidei, di persone che hanno le loro liturgie e le loro ritualità, delle quali chi non frequenta, non lambisce quell'ambiente, ha soltanto una lontanissima idea fantasmatica. Io ricordo, per aver lavorato tanti anni in una grande azienda pubblica, poi la RAI tutti lo sanno, la RAI aveva il piano dirigenziale che era il settimo piano. Il settimo piano, a differenza degli altri piani, era rivestito di moquette color tortora anche alle pareti, anche al soffitto. Era un piano in cui si galleggiava in questa sorta di impalpabile clima che lì si respirasse l'aria del potere. I poverini, gli impiegati, le segretarie, gli aspiranti aspiratori che stavano ai piani bassi, avevano questo stratagemma. Per accedere al piano mensa, che era l'ottavo piano, un piano quanto mai plebeo, alla mensa ci andavano soltanto i dipendenti, c'era la mensa e il bar con un grande terrazzo immerso in pannelli d'amianto, ancora penso che sia lì, in cui andavano tutti a mangiarsi il tramezzino. Invece di prendere l'ascensore dal primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto piano e accedere direttamente all'ottavo piano, scendevano tutti al sesto piano per fare a piedi un giro panoramico nel settimo piano, nel piano del potere, soltanto per vedere, respirare l'aria, sperare di incrociare qualcuno di quei semidei e sfiorare con la mano quella moquette color tortora. E mi ricordo questa transumanza di signore col borsellino sotto braccio che erano appagate di quel momento di fulgida gloria di passare attraverso il settimo piano. Scendevano al sesto piano, salivano una scala, facevano tutto il giro del piano e risalivano nella scaletta di sicurezza per andare al bar. Beh, oggi di questo voglio parlare, della perdita di concretezza, della perdita di compattezza, della perdita di sicurezza per coloro che devono ogni giorno pensare: ma domani come farò a tirare avanti, come farò a dimostrare che ho lo stesso tenore di vita, e cominciano ad accedere a quelli che sono i gioielli della nonna, alle piccole economie sommerse, e a quelli che invece nei piani altissimi sembrano non essere sfiorati a nessuna crisi. Ma anche per loro esiste un purgatorio, anche per loro esiste un inferno. Di questo parleremo questa mattina. 800 24 00 24. Buongiorno, mi chiamo Maria Rossi, ho poco più di 20 anni e sono laureata a pieni voti in scienze della comunicazione. Sono iscritta presso la Facoltà di Economia e Commercio di Torino, dove mi sono laureata nel 2002 con la votazione di 100 su 110. Ho un'ottima conoscenza della lingua inglese. Hi, my name is Anna Lisa. I'm 26 years old and I'm graduated in economics. Buongiorno, nome e cognome Lucia Rosina, nata a Biella il 1968, giovane dentro. Laureata in chimica industriale, Università Statale di Milano 1993. Qua stiamo guardando ancora ai piani bassi, giovani che di fronte alla disperazione generale, al pessimismo generale, cercano lavoro, si industriano, hanno trovato una forma di pubblicizzazione di se stessi, della propria aspirazione ad essere risorsa umana, mettendo i loro curriculum in internet e esponendo e dichiarando e mostrando quello che sono, anticipando quello che potrebbe essere un possibile colloquio di lavoro, facendo il videoclip autoprodotto della propria esistenza, e lo mettono lì in un momento in cui gira velocissima la giostra e sono più quelli che perdono il posto, si schiantano, piuttosto che quelli che rimangono ben ancorati al loro seggiolino. Loro ci provano. E altri cosa fanno? Trasforma il tuo oro in contanti. Vieni da Jolly Oro. Jolly Oro. Jolly Oro. Jolly Oro acquista oro usato, acquista anche polizze e pegno. C'è un posto dove acquistano il tuo oro, non con pochi ma con tanti soldi e subito. Golden Island. Un gioiello d'oro che hai comprato o ereditato qualche anno fa adesso potrebbe valere molto di più. Il Toscano Compro Oro ti offre un nuovo e conveniente modo di vendere i tuoi gioielli rotti o inutilizzati. Vendere un gioiello d'oro che non usi più. 800 24 00 24. Questo è un aspetto del problema, quello che vi stiamo prospettando questa mattina: come far fronte alla necessità di mantenere uno status, di essere ancora uomini con la loro dignità, di essere considerati, di coprire, mascherare, simulare, non mostrare l'insopprimibile e il mortale vulnus del fatto di non avere lavoro. Oggi una delle vicende maggiormente controverse, almeno vedo dai giornali, andando oltre quelle che sono le mie competenze, è la questione, il dibattito attorno all'articolo 18, che l'articolo proprio sulle norme che regolano i licenziamenti. Essere licenziati è drammatico, essere licenziati è qualcosa che fa rabbrividire per due punti di vista. Primo, perché si perde il lavoro, si torna a casa e si immagina, dice: ma adesso cosa darò alla mia famiglia, cosa accadrà domani? Poi lentamente, come vedete, si provano a recuperare delle risorse, si cerca di inventarsi qualcosa. Ma in realtà la ferita più grossa, quello che realmente nessuna economia domestica, nessun ripiego, nessuna vendita sottobanco di gioielli famiglia può far recuperare, è la perdita della centralità della propria posizione sociale. E se questo avviene in basso, questo avviene anche in quei piani ovattati, in quei piani mochettati, in quei luoghi in cui muovono i semidei che nelle aziende sembrano avere in mano le redini. Beh, un ritratto impietoso spietato, molto cinico, per certi punti di vista anche molto umano, lo fa nel suo ultimo libro, L'impresa vista dai perdenti, per Luigi Celli. Per Luigi Celli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Per Luigi Celli è stato praticamente ogni anno nostro ospite con il suo libro, che era sempre una sorta di memento mori di quello che stava accadendo. Prima con la vicenda controversa di un consiglio a un figlio di andare a cercarsi lavoro all'estero, e poi su il coraggio di Don Abbondio, di cui parlammo l'anno scorso, che in fondo era una sorta di campanello allarme, e quest'anno L'impresa vista dai perdenti, edizioni Aliberti. Per Luigi Celli lo conosco bene, ci diamo del tu perché è stato mio direttore generale, quindi lui abitava in quei piani moquettati che ho appena descritti come luogo paradiso. Orribile moquette, peraltro. Orribile, terribile, color tortora, puzzolente. Sì, io l'ho fatta cambiare, ho incontrato molte resistenze. Era una moquette color tortora in origine, forse, era più color vomito ormai. Sai, di vomiti ce ne sono stati sovrapposti parecchi in quei posti. Però io ho visto che questa volta tu hai osato oltre l'inosabile, hai mostrato il lato debole di coloro che abitano quei piani immocchettati, delle storie fantastiche, bellissime, di dirigenti silurati, di questa sorta di ovattato clima surreale che si respira ai piani alti dell'azienda, delle cose fantastiche, un dirigente che per essere più elastico e più leggero viene costretto a fare, penso sia fantasia, un corso di danza classica, poi viene licenziato e finisce a fare il trans lungo le strade. Ecco, cosa c'è di fantasia e di vero in tutto questo, e qual è la cifra che racconta come sentono la crisi ai piani alti? Dunque, la fantasia evidentemente c'entra, la fantasia lavora su degli spunti che sono reali, storie che in qualche modo, o spezzoni di storie che si sono vissute, io ne ho vissute tante, anche perché ormai comincio a essere veramente anziano. E quindi, quante aziende hai passato te ai piani alti, più o meno? Boh, sono una dozzina. E qual era la cifra comune che accomunava tutti, proprio sulla domanda che ti sto facendo io, sulla surrealtà che anima i rapporti nei piani alti? Il problema di quando arrivi nei piani alti è che perdi il contatto con la realtà, e dopo un po', se non c'è qualcuno che ti tira giù per i piedi, tu non riesci più a immaginare nient'altro che la vita che si svolge a quei piani. E quindi in realtà la gente non la conosci più, non ti interessa neanche più. E il problema è che se dal piano alto tu la gente non la incontri, quella ai piani bassi, la gente ai piani bassi di per sé non esiste. Quindi è una catarsi necessaria per il manager farsi una passeggiatina con lo scatolone di cartone con le sue cose in mano? Di solito, come dire, un buon manager, che non lo si capisce dalla quantità di incontri che fa fuori dal suo ufficio, cioè dalla capacità di girare all'interno, nella pancia, diciamo così, dell'azienda. Se è bravo, lui l'azienda la governa girandoci dentro, non stando in ufficio. Quanto più tu resti in ufficio, tanto più vuol dire che te ne frega moltissimo del resto. Tu fai un quadro molto realistico, essendoci passato, avendo conosciuto, di quelli che poi sono gli obblighi sociali: la macchina, la casa adeguata a ricevere le persone, uno status di vita regolare, ma anche di vita irregolare, che rappresenti comunque quello che sei. E questo per molte persone finirà, sta finendo, arriverà anche per loro, non lo dico con il vindice orgoglio e soddisfazione della tricotes davanti alla ghigliottina, ma se arriva per noi arriva anche per loro. Ma tieni presente un fatto, che quanto più tu sei in alto, quanto più tu ci sei arrivato, come dire, non sempre solo per merito, tanto più tu tendi a permanere in quella posizione, per una serie di ragioni. Primo, perché sentendoti tutto sommato insicuro, hai costruito lungo la strada tutta una serie di relazioni e di posti di salvaguardia, come delle mura. Anche perché quanto più tu hai speso nella salita verso la carriera, quanto meno tu hai investito nella vita, sostanzialmente. Quindi in realtà, fuori dal lavoro, fuori da quei piani alti, il resto è un buco nero per te, quindi ti fa angoscia. E quindi quanto più tu ritardi, tanto più, come dire, ritardi il momento in cui devi fare i conti con qualcosa che non ti appartiene più. Quindi oggi abbiamo capito che le leve del potere che regola comunque il mondo del lavoro sono tenute da persone che in realtà ormai si sono astratte dal mondo, non hanno più una vita umanamente assimilabile alla vita degli altri esseri umani. Ma sentiamo qualche ascoltatore. Luca, buongiorno. Luca. Sì, pronto, buongiorno. Eccoci. Senta, io volevo, mi interessa molto questo argomento, a parte che la sento abbastanza perché ho un lavoro che mi permette, diciamo, una certa flessibilità, ma volevo fare il riferimento sulla mia esperienza per non andare nell'astratto, nel senso, io comunque lavoro da 10 anni, ho 38 anni e ci si rende conto alla fine che il potenziale di aspettative che ogni persona, diciamo, che comunque ha fatto un percorso di un certo tipo, ha all'inizio, diciamo, delle sue aspettative. Lei ha un lessico da risorse umane, ma in che settore lavora? No, io lavoro nella consulenza aziendale. Ah, beh, ecco, vede, come vede, esattamente, sono coloro che vengono chiamati per ottimizzare, per suggerire soluzioni in questo momento, per diciamo creare delle situazioni, efficientare il termine, per dare efficienza. Sì, diciamo di sì, però fondamentalmente... A lei viene chiesto lo sporco lavoro di come si caccia la gente, ecco questo. No, nel mio caso no, nel senso io sono un consulente che ottimizza in teoria determinati processi aziendali, ma che comunque non riguardano specificatamente il taglio di teste, ecco. Diciamo i passaggi di informazione. Esattamente, però quello che io volevo appunto, su cui volevo soffermarmi è il significato che poi dopo un certo periodo di anni, diciamo, per cui si fa una professione, si perdono anche quell'immaginifico, quelle aspettative che inizialmente si accumulano in un potenziale e che poi si disperdono e non si sa nemmeno perché si arriva, diciamo, ad un fallimento che è più o meno grave, ma che comunque nel 99% dei casi è sempre dato, diciamo che a un certo punto, Luca, riassumo, e si perde la capacità di cogliere quelle avvisaglie intorno a noi, per cui a un certo punto ci si ritrova, come diceva Celli, di sprofondare nel buco nero. Elena. Sì, è vero, ho ascoltato gli altri due. Prima di tutto vorrei dire congratulazioni per l'emissione, se anche io sono arrivata qui da 10 anni da un paese dell'est, che siamo in comunità europea, vi ho scoperto da un anno e vi ascolto sempre, mi fate un grande piacere, io essendo alla base una ricercatrice scientifica e qua infatti ho fatto lavori, vi immaginate. Che lavori fai in Italia? Di tutto, operaio, badante, adesso ho fatto anche una scuola di OSS, operatore sociosanitario. E però davvero... lei è una ricercatrice scientifica, diciamo, al suo paese, paese qual è? Romania viene? Come? Lei da quale paese viene dell'est? Sì, Romania. Romania, sì. Lei è rumena e quindi lei ha studiato e si è qualificata per fare cosa? Per operatore sociosanitario, però è difficilissimo perché vedo che così come è questa emissione adesso, si è formato un strato, un livello di persone che si isolano nella war, con Fildes in mia lingua, quindi e perdono il contatto con la casta che si forma sotto di loro e quella casta dopo si allarga piano piano con le conoscenze e tu non puoi entrare, se entri dopo un periodo ti elimina. E anche lei conferma quello che ci diceva prima per Luigi Celli, che in realtà a un certo punto la dedizione totale, radicale, viscerale, metafisica al mondo del lavoro in realtà logicamente ci allontana da quella che è la percezione del tempo che stiamo vivendo. Melog 2.0. La tipologia di clientela che maggiormente famiglia. Avete? Famiglie, donne, uomini che comunque magari anche non soltanto per problemi economici, ma penso anche magari perché non sbarcano il lunare flemese, poi sicuramente vengono loro per quello, la prima cosa è quella. Poi tanti, ho anche una clientela che viene perché magari al loro vecchio del fidanzato che non lo vuole più perché sono lasciati, anche quello. Diversi approcci, diciamo, al problema. Pierluigi Celli, qual è il corrispondente di andarsi a vendere gioielli di famiglia del perdente nell'impresa? Cosa fa invece che vendersi gioielli quando si trova nel momento in cui il galleggiamento diventa impossibile, in cui il buco nero si allarga, in cui le persone ti voltano la schiena e ti ritrovi solo? Dunque, il buco nero vero è la depressione che ti prende, perché il fatto è molto semplice: nel momento in cui tu non vieni riconosciuto in azienda, quindi diventi un numero, rapidamente perdi il riconoscimento di te stesso, cioè perdi anche il rispetto di te stesso, non sai più chi sei, e non sapendo più chi sei, in realtà, come dire, finisci per disprezzarti, per sentirti uno che ha definitivamente perso. Anche perché i tuoi cosiddetti riporti cominciano a riportare a qualcun altro. I tuoi riporti cominciano a riportare a qualcun altro, non cominciano a venire più chiamato nelle riunioni, non entri più nelle mail che vengono spedite. Progressivamente tu cadi al margine, e i margini sono qualcosa che l'azienda non vede più, perché l'azienda è sotto di una miopia, miopia dei margini. Cioè, chi sta al margine non viene visto, e se non viene visto non viene riconosciuto, non viene valorizzato, quindi non esiste per definizione. Quello che viene da pensare, ricordo, per Luigi Celli, è autore dell'Impresa vista dai perdenti, a Liberti Editore, sotto forma di aforisma, di racconto, di esercizio letterario, però racconta storie che hanno dei fondamenti, si intuisce, reali, concreti, di disgrazie accadute in alto. Ecco, come si fa a far capire a chi invece va a vendersi l'anellino della nonna e la catenina della prima comunione che in realtà esiste un problema umano anche a quei livelli? Perché saremmo tutti portati, noi, mi ci metto per populismo, appartenenti alla massa della plebe, dire: ah, che bello, finalmente cadranno anche delle teste in alto. Ma questo non fa bene a nessuno, secondo me. Beh, non credo che uno debba sperare o augurarsi che cadano più teste di quelle che già sono per strada. Questo non fa bene, anche perché credo che questo paese, se ha una possibilità di uscire dalla situazione in cui è, la possibilità dipende dall'impegno di tutti e dal fatto che tutti possano portare il loro contributo. Ma non dovrebbe rivedere anche alcune sue liturgie? Perché tu ormai hai scritto tanto su queste cose qua, l'idea viene che esista una sorta di fuffa condivisa che risucchi risorsa a tutta l'umanità e che in realtà mantenga questa sorta di, è come un po' i privilegi della casta, i consulenti, le attività per finalizzare, i corsi per dirigenti, gli status da mantenere. Tutto questo, su questo non si può tagliare, ma è un taglio più che altro di tipo psicologico, emotivo. Ma guardi che le aziende stanno tagliando anche abbastanza. Il problema reale è che il taglio in alto, dovendo essere un autotaglio, è sempre molto difficoltoso. È come la stessa logica del perché non si abbandona un posto pur avendo l'età per poterlo abbandonare, per doversi andare, perché in realtà il posto tutela la nostra esistenza. Fuori di quel posto molto spesso noi non siamo nessuno, noi siamo quello che siamo perché occupiamo una posizione, ci rappresentiamo per quella posizione e all'esterno esistiamo in quanto dotati del potere legato a quella posizione. Se ci viene tolta la posizione, chi siamo? In famiglia probabilmente non siamo nessuno, perché tanto, come dire, macchiamo da tanto tempo, chi ci ha più visto in famiglia? Se va bene arriviamo tardi, siamo sempre in giro, i figli sono cresciuti, la moglie ha trovato altre compensazioni. Sì, no? Come quel controller in uno dei tuoi racconti, certo, che dedicava tutta la vita al lavoro, i dirigenti anziani dicevano: hai beato te che non hai famiglia, puoi stare dentro tutto il giorno. Lui tutto contento, sì, c'ha una bella moglie giovane, ma lavoro anche per lei. Poi un giorno torna a casa prima del tempo, trova la porta chiusa, sente sorrisi e sospiri, capisce che aveva investito male nella sua vita. Certo, c'è una presunzione, quanto più tu sei in alto, e questo è straordinario, è verificabile, che tu quello che sei all'interno del mondo del lavoro lo puoi palpare vuol dire riportare all'interno delle altre cerchie nei quali tu vivi, quindi la famiglia, lo sport, la politica, l'associazione, il gruppo degli amici. Non è vero, perché all'interno del mondo del lavoro tu hai uno statuto sociale che dipende dalla carriera che hai fatto e da come lavori di solito o dalle protezioni che hai avuto, ma negli altri ambiti non puoi trasportare lo stesso statuto, perché negli altri ambiti non ti viene riconosciuto. Gli altri ambiti sono molto più selettivi. Infatti il sogno di ogni dipendente licenziato è incontrare il suo capo del personale un giorno per strada, senza intorno la barriera di segretare, di leccapiedi, di garanzie, e vederlo faccia a faccia. Sentiamo Mario. Mario, buongiorno. Buongiorno. Ma io avrei voluto dire io, se fossi stato in grado, le stesse cose di Celli le condivido appieno. Vabbè, dillo con Paolo, tu, Celli è un manager che ha passato 2000 aziende. Senz'altro. Però volevo, e ho condiviso anche molte delle cose già dette, ma volevo, a parte la perdita di dignità, la perdita di identità e di autostima che si ha nella perdita del posto di lavoro, volevo fare un'osservazione aggiuntiva. C'è una cosa, secondo me, che sta dentro anche i discorsi sulla casta. Quando pensiamo di perdere certi diritti come quelli garantiti dall'ex statuto dei lavoratori, eccetera, c'è anche un'altra cosa che ci turba, ed è il fatto, la sensazione che coloro che decidono per il nostro licenziamento, coloro che decideranno per metterci in strada temporaneamente, liberisticamente, così, sono persone che non appartengono a quel mondo nostro fatto di pensioni, di fine mese, di meditazioni se spendere o non spendere. Quella è gente che decide, quelli del piano con la moquette color tortora, è gente che è al di fuori della logica nostra e decide per noi tranquilla, perché tanto se le cose vanno male loro vanno ad investire in Cina. Diciamo che la macchina è un pochino più complessa, non è proprio, sì, così. Ma stiamo semplificandola, però le voglio dire una cosa solo per curiosità. Non voglio assolvere, guardi, le assicuro, io in me passate vite sono stato invitato a dimettermi, ero in un posto molto importante, il giorno della vigilia di Natale, così i giornali non avrebbero fatto casino, quindi, cioè perlomeno non sarebbero interessati a questo, quindi so bene quanto ci può essere di spietatezza, non lo dico con il sorriso, però la macchina è un po' più complessa, esistono dei cervelli che vivono al di fuori di queste necessità, ma gli esecutori, le seconde, terze, quarte linee sono persone che hanno lo stesso problema del licenziato molte volte e si difendono la loro sopravvivenza a costo di questa spregiudicatezza apparente, reale, concreta indifferenza. Antonio? Pronto? Eccolo. Sì, buongiorno. Senta, brevemente, io sono un dirigente che sta lasciando l'azienda. Invitato a lasciarla o per limiti? No, volontariamente. Si è proprio rotto le scatole. Sì, ho detto basta, io ho cominciato a lavorare a 17 anni, sono diventato dirigente 23 anni fa. E contrariamente a quello che dice il dottor Celli, ho una mia vita e ho sempre saputo che nel momento in cui avessi lasciato l'azienda quell'aurea di potere che avevo non ci sarebbe stato più, ma ne ero sempre perfettamente consapevole. In che settore lavora lei, Antonio? Informatica pubblica. Ma quindi un posto pubblico? Diciamo che è un'azienda a capitale pubblico, ma non è pubblica. E a che livelli lascia l'azienda, per capire più o meno, che fascia era? Middle management, non sono al quarto piano, sono al terzo. Quindi se ne va ancora tranquillo da questo punto di vista, dal punto di vista della pensione e tutto, quindi ha scelto la pensione perché sono uno di quei famosi sfigati del 52-53. Ah, mannaggia, per un anno ha perso. Ma la cosa non mi spaventa. Vabbè, si vede che lei ha investito saggiamente in questi anni di lavoro e quindi avrà il suo orticello, la sua casetta, le sue... Ma io penso anche, ma io non penso di fare cincinnati, io penso ancora di lavorare, ma di cercare di fare qualcosa che mi piace e mi diverta. Volevo solo fare una considerazione a base di tutto quello che ha detto il dottor Celli. Le persone di cui ha parlato fino adesso sono delle povere persone. Beh, povere. Una persona che ha investito tutto sul lavoro e che quindi, a detrimento della sua vita umana, per me sono dei poveretti. I poveretti, però guardi, l'eccezione la rappresenta lei, mica loro. Lei che è stata nelle aziende lo sa, l'azienda è fatta gente che entra la mattina con il telefono all'orecchio e se ne va nottetempo per paura che qualcuno rimanga un istante più di lui e possa fargli le scarpe. Le risponderà Pierluigi Celli fa un istante dopo le informazioni del traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. 800 24 00 24, stiamo anche noi dando un contributo alla giornata dedicata alla crisi, parlando della perdita del posto del lavoro, parlando dal punto di vista di chi lo perde in basso, di chi non ha possibilità di reagire, dal punto di vista invece di chi apparentemente nella comune percezione non ha nessun tipo di considerazione di pietà, chi lo perde ma lentamente, gradualmente, rinunciando, vedendo ogni giorno che deve rinunciare ad alcuni privilegi, privilegi che lo fanno sentire lontano dal mondo, improvvisamente si rende conto di fare i conti con una realtà che ha sempre tenuto lontano. Lo facciamo assieme a Pierluigi Celli, che è autore del libro L'impresa vista dai perdenti, a Liberty Editore. Pierluigi, prima che tu risponda all'ascoltatore ultimo, il dirigente felice che se ne va avendo mantenuto un contatto con la vita, non rinuncia a niente, in piena leggerezza e tutto, sembra quasi un personaggio al di fuori della realtà aziendale reale. Visto che sei anche direttore generale dell'Università Luis Guido Carli di Roma, che dovrebbe formare comunque anche i futuri dirigenti, vedi delle vie di uscita, vedi dei correttivi, ma su questo ambito di cui stiamo parlando, non è un ambito né di macroeconomia né di organizzazione, è proprio di filosofia dell'appartenenza al lavoro. Allora, due cose. Alla persona che ha parlato prima, non a caso un dirigente felice se ne va, è sintomatico. Perché ovviamente ha una sua vita reale che vuole in qualche modo mettere alla prova anche fuori dal contesto di lavoro. Quelli che non se ne vanno molto spesso è perché è un contesto esterno, non hanno nulla, oppure non hanno neanche l'aspirazione ad andare da un'altra parte. Quindi questo è il dramma di molte situazioni di vertici aziendali, non tutto ovviamente, lo stiamo estremizzando. La seconda cosa è invece la considerazione del fatto che noi stiamo parlando di quelli che perdono il posto di lavoro, non stiamo parlando di quelli che al posto di lavoro non riescono ad arrivare, che sono i più giovani. Ed è questo un problema reale, per esempio, dei sistemi educativi e dell'università. Noi lavoriamo nelle università, lavoriamo ormai decine di migliaia di persone ogni anno che hanno una difficoltà enorme di trovare un loro percorso che li porti al posto di lavoro, e questo è un problema serio. La seconda considerazione è che quando ci arrivano in maniera così frammentata, così precaria, dopo tanti mesi o tanti anni passati da un posto a un altro, che hanno perso proprio la voglia, hanno perso l'attaccamento, non avranno l'imprinting lavorativo che si aveva quando si aveva la possibilità. Pierluigi, c'è un rapporto però con questa stracca liturgia dei piani alti che in fondo si autoprotegge dal fatto che altri possano entrarci dentro, come un circolo, come il circolo dei nobili in cui non si entra se non sei quattro quarti di nobiltà. Io ti ricordo quello che diceva Cioran, che era un grande, parlando proprio di queste categorie ai vertici, ma perché dovremmo lasciare, farci da parte quando abbiamo ancora tante persone da deludere? Che è una situazione effettivamente reale, cioè c'è un cinismo di fondo una volta che occupi quelle posizioni che in qualche modo ti protegge e ti garantisce da questo. Ma scusa, allora sembra che l'unica soluzione è la presa alla Bastiglia. Ma io credo che i giovani abbiano una sola soluzione, cioè devono farsi valere e in qualche modo, come dire, spingere, rivendicare, combattere finché i posti non li hanno. C'è una considerazione di fondo da fare, non è che il ricambio generazionale risolva semplicemente tutte le situazioni, bisognerebbe trovare un equilibrio per cui i più giovani arrivano più presto in posizione di comando, soprattutto quelli più bravi, quelli che hanno meritato, quelli che ci sono impegnati, e i più anziani, facendosi di lato in qualche modo, gli garantiscono la esperienza che loro non hanno, per poter fare anche tutti gli errori che devono fare in condizioni di relativa sicurezza. Il problema reale è che le imprese non sono più un tessuto sociale. Noi abbiamo perso questa caratteristica un po' comunitaria, un po' di connessioni. in realtà, quando tu vivi lungo tempo la tua giornata all'interno di un'organizzazione, questa organizzazione di per sé è un microcosmo sociale, ma se tu hai disancorato tutte le tue possibilità facendoti vivere semplicemente come individuo, perché ormai l'ideologia individualista è un'ideologia preeminente, ognuno per sé e Dio se c'è per tutti, è chiaro che tu hai disconnesso tutte le possibilità di fare comunità all'interno di un'organizzazione, quindi ognuno tenderà a salvarsi e in qualche modo a fare carriera indipendentemente, molto spesso contro gli altri, e quindi chi è più forte, chi ha più protezioni, chi ha più voglia di arrivare, chi ha più cinismo arriva, e gli altri in qualche modo scivono progressivamente in mano. Allora, a me viene in mente, io tempo fa sono andato a visitare un luogo controverso in Italia, che sono gli stabilimenti delle ex Falck, che sono dei grandi ormai scheletri di acciaio alla periferia tra Milano e l'Interland, capito? Una volta c'erano delle acciaierie, poi a un certo punto non sono state più produttive, sono state dismesse e gli costruiranno una città modello o qualcosa del genere. Beh, lì era una città, c'erano le strade, c'era il treno, c'erano le scuole, c'era il dopolavoro. La gente che entrava lì entrava in un'organizzazione, una sorta di organismo che si autososteneva. Non era più un luogo chiuso al mondo, perlomeno era una piccola città dove il lavoro diventava anche la capacità di vivere una socialità in cui l'industria ti pensava dall'inizio alla fine, ai tuoi figli, a te, al tuo tempo libero, alla tua sopravvivenza, al tuo divertimento, al tuo sport e via dicendo. Oggi è il lavoro è diventato qualcosa staccato da ogni attività piacevole, ludica, socializzante. Il lavoro è il lavoro, diventa quasi una sorta di scelta trappista, però che non ti porta a nessuna parte, a nessun assoluto. Tiziana, non c'è più. Francesco. Buongiorno. Eccolo. Io non sono come quel manager che va via contento, io sono un imprenditore che lascerebbe a malincuore perché non ne può più. Gestisco un'azienda insieme a un socio di 18 persone e mi vanto di avere un cuore e un'anima perché sono 3 anni che ho un esubero di personale e non ho licenziato nessuno. Nell'Interland perugino, immagino, da come parla. Sì, siamo corregionali. E siccome vivo la realtà dell'impresa tutti i giorni con loro, io sono in piedi stamattina dalle 7 e giro con loro, mi chiamano quando ci sono i lavori più complicati perché facciamo un lavoro particolare. Mi vanto del fatto di non aver licenziato nessuno perché vedo il dramma che vivono con la paura, specialmente gli ultimi assunto, di essere i primi sulla pista di partenza. E pensa di potercela fare? E se non so se qualcuno ci aiuta, perché chiaramente io mi ispiro a un principio che dovrebbero avere tanti imprenditori. In un periodo di magra bisogna fare sacrifici e aiutare i dipendenti che in altri anni ti hanno aiutato a guadagnare qualche soldino. Quindi se c'è riconoscenza per chi ha fatto questo, sono 3 anni che io faccio sacrifici per mantenere il posto di lavoro. Certo, lei parla, io ho poca non esperienza. Non è che sono nella mina di San Vincenzo. No, ma ho capito. Ho capito, lei però dice riesco a convincere e a condividere il sacrificio tutti i dipendenti, e quindi se c'è una condivisione del margine di riduzione da parte di tutti ce la facciamo. Secondo lei questo principio è applicabile a tutti i livelli? Ma guardi, tenga presente che quando qualche anno fa un noto imprenditore italiano è stato portato in auge perché dava, non mi ricordo se 50 euro in più ai suoi dipendenti, io sono 20 anni che ai miei dipendenti davo 100.000 lire quando erano lire e do 100 euro adesso, non fuori busta, integrazione alla busta, perché cerco di dargli una mano e gliel'ho lasciata anche in questo periodo di crisi, quindi pensi un po' come la penso. Purtroppo non è applicabile quando il mondo va in un certo modo, naturalmente, e uno si deve adeguare, ripeto. Se le cose continueranno ad andare male mi devo adeguare anch'io. Però speriamo, con i migliori auguri di adeguamento. L'ascoltatore Francesco gestisce ancora all'antica la sua azienda e spero gli vada bene. Ringraziamo per Luigi Celli, l'impresa vista le perdenti, a Liberti Editore. Domani, seconda puntata sulla crisi. Melog 2.0. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.